Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per presentare il documentario Banksy, l'arte della ribellione, al cinema dal 26 al 28 ottobre 2020. Mattia, ben trovato. Ciao a tutti. Come lo presenteresti? Banalmente come un documentario su un artista che gioco forza e senza essere troppo marchettaro, però è probabilmente uno specchio del nostro tempo, che ha scatenato un sacco di dibattiti, non tanto e non solo sulla sua identità, ma anche proprio sull'idea di mainstream contro non mainstream. E questo è un documentario che cerca un po' di fare luce sulla figura dell'artista e anche, diciamo, un po' sulla sua identità, che è sempre nascosta. È un bel affresco, perché si parla di arte di strada, dai murales, dai graffiti, fino allo stencil, fino alle mostre. Sì, il documentario che incrocia un excursus storico con il percorso di Banksy e le sue opere, ma anche con una parte un pochino più antecedente, diciamo, all'opera di Banksy, e analizza un po' come è nato tutto questo fenomeno, se possiamo chiamarlo così, della street art. E quindi è interessante proprio per questo tipo di ambivalenza, sostanzialmente, ecco. E come dicevi tu, poi, è ovvio che la definizione di street art, io non sono tecnico da questo punto di vista, però è per sua stessa natura multidisciplinare, per cui si parla da una parte di graffiti, ma non solo, quindi anche di installazioni vere e proprie, di performance quasi, no? Come quella del quadro che si autodistrugge, che abbiamo visto nel recente passato, insomma. Quindi questo è un po' sostanzialmente uno sguardo idealmente a 360 gradi sulla figura dell'artista, ma anche su quel tipo di forma di comunicazione artistica. La questione dell'identità crea un interessante cortocircuito, soprattutto per quanto riguarda il confronto tra le gallerie, le aste d'arte e la questione dell'attribuzione dell'opera. Sì, tra l'altro questo è stato anche tema recente, nel senso che il tema dell'attribuzione dell'opera è in maniera un po' più ampia rispetto a come l'hai descritto tu, ma anche per quanto riguarda il discorso del copyright, è un tema interessante, nel senso che, come avete visto recentemente, è stata persa una causa da Banksy per l'utilizzo di una sua opera proprio per un tema di copyright, perché non avendo la possibilità di definire il titolare dell'opera, che per sua stessa natura è anonimo, allora a quel punto non è neanche possibile attribuirne in qualche modo una paternità registrabile. Questo è sicuramente un altro degli aspetti estremamente interessanti e controverso in qualche maniera. Controverso non tanto e non solo dal punto di vista legale, ma viene a dire anche un po' dal punto di vista filosofico, ecco. Le stesse opere che sono esposte in strada in alcuni casi vengono rimosse e poi rivendute. Sì, assolutamente. Questo è un percorso che è accaduto alcune volte. Ripeto, secondo me ogni aspetto che noi andiamo a toccare, ed è la bellezza probabilmente di questo film, ogni aspetto che noi andiamo a toccare ha una controversia in qualche maniera, per cui l'idea di fare un'opera per strada è che quindi teoricamente non ha padrone, non ha proprietario, però poi quella stessa opera viene rimossa e da lì si crea un mercato, quindi l'identità vera o presunta, come vedi, ogni tipo di aspetto che riguarda questo artista è estremamente controverso e genera un sacco di narrazioni e di dibattiti. Quindi questa secondo me è la parte più interessante anche, no? Di tutto questo discorso, è una parte che viene comunque affrontata in maniera molto corposa all'interno del documentario. Di questo regista cosa sappiamo? È un regista inglese, nonostante il nome suoni spagnolo, ed è un regista che ha un passato di documentari, principalmente documentari sempre legati in qualche maniera al mondo dell'arte. Questo era il primo documentario che lui fa confrontandosi con un tema così complicato, e avendo avuto la possibilità di parlarci ti posso dire che il materiale preparatorio è stato estremamente lungo, perché è stata una ricerca di archivio molto molto lunga, perché il documentario ha delle immagini inedite ma ha alcuni materiali di archivio recuperati, quindi questo ovviamente ha richiesto molto molto tempo. E sostanzialmente lui stesso mi diceva, però non mi ha poi detto la risposta, che comunque lui durante queste indagini, secondo lui, è arrivato vicino all'identità di Banksy. Poi non dico altro perché sennò svelo il documentario e credo delle false aspettative. Come dicevi, un lavoro importante e complesso per quanto riguarda le opere, ma anche tanti luoghi che ha percorso per fare appunto questo excursus sia storico che geografico rispetto all'arte di strada. Sì, ma come ti dicevo prima, c'è una parte, un documentario che parte dagli Stati Uniti, quindi con appunto la nascita della street art dal punto di vista concettuale, e poi c'è dentro tanta Inghilterra, ovviamente tanto Bristol, per evidenti motivi legati alla paternità e anche in qualche maniera di nuovo a una commistione che c'è sempre, no? Anche tra la scena musicale di Bristol che ha generato, o ha contribuito meglio forse a generare questo concetto di arte un po' dappertutto, e c'è tanta Inghilterra, e poi ci sono tante mostre di Banksy che sono in tutta Europa sostanzialmente, adesso ce n'è una anche a Roma, le Casse di Bramante, insomma. Cos'hai apprezzato maggiormente di questo lavoro? La sincerità, nel senso che è un lavoro sincero, l'abbiamo acquistato che non era ancora finito, quindi abbiamo visto soltanto delle cose. Quando l'ho visto finito, ne ho apprezzato la sincerità, perché mi è sembrato uno sguardo abbastanza indagatorio, ma non pruriginoso, ecco. Quindi questa roba l'ho trovata davvero interessante. Sottolineo anche una ricca colonna sonora. Sì, certo, non c'è niente da rispondere. Dicevo prima, no? Sì. Non riesci a slegare mai una cosa dall'altra, no? Cioè, nel senso che comunque c'è veramente tanta Bristol dentro, anche dal punto di vista della colonna sonora. Quindi questa cosa è. Perché è impossibile slegarlo, come parte di un tutt'uno. In quante sale? Siamo intorno ai 250, siamo in attesa dell'ultima conferma. Banksy, L'arte della ribellione di Elio e Spagna al cinema dal 26 al 28 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment che lo distribuisce. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima! Ciao a tutti! Con Anita Rivaroli, regista del documentario We Are the Thousand, l'incredibile storia di Rockin' Mille al cinema dal 25 al 28 ottobre 2020. Anita, ben trovata. Ciao Federico, buongiorno. Come lo presenteresti questo lavoro? È la storia di un'impresa impossibile. Nel 2015 mille musicisti si sono radunati in un parco a Cesena, in Emilia Romagna, per suonare tutti contemporaneamente un brano dei Foo Fighters. Il brano si intitola Learn to Fly, una canzone molto famosa. E hanno fatto tutto questo per registrare un video che poi è stato messo su YouTube con l'intento di chiedere alla band di venire a suonare a Cesena. E detta così sembra proprio una follia, perché ti spiego un po' meglio. Il tutto è partito da un caro amico che si chiama Fabio Zaffagnini, che è sempre stato un fan dei Foo Fighters, il quale appunto un giorno è venuto da me e da altri amici a parlarci appunto di quest'idea che gli era venuta in mente di fare un tributo enorme a questa band che lui amava. E poiché erano una band molto grossa, che mai sarebbe venuta a tenere un concerto in una città piccola come quella di Cesena, lui desiderava fare un gesto, un tributo, un omaggio così grosso e potente da quasi costringerli a venire. E quindi da quest'idea è nato il progetto Rockin' Mille, nel quale sono dentro fin dagli esordi perché sono una delle prime persone che Fabio ha coinvolto. E poiché ero appena uscita dal centro sperimentale, mi ha affidato la responsabilità della parte audiovisiva. Quindi mi sono occupata allora di realizzare le riprese per girare il videoclip del brano Learn to Fly, che poi abbiamo messo su YouTube e in pochi giorni è diventato virale e ha fatto sì che i Foo Fighters rispondessero subito all'appello e poi venissero effettivamente a suonare a Cesena. E mentre tutto questo succedeva, e diciamo all'inizio se io ero lasciata prendere da questo entusiasmo, avevo deciso di partecipare per realizzare, diciamo, quel singolo contenuto. Man mano che lavoravo a questo progetto mi sono resa conto che lì dentro stava succedendo qualcosa e che quindi non volevo fare solo un videoclip, ma c'era tanto materiale interessante per farne un documentario. E quindi dopo quella giornata mitica a quel parco, dopo aver incontrato i primi mille musicisti, ho deciso che volevo farne un documentario. Quindi ho cambiato l'approccio e la sensibilità con cui ho fatto le riprese. Come l'hai deciso poi di strutturare questo lavoro? Avendo avuto questa consapevolezza, non subito, ma dopo che era accaduto il primo evento live, ho dovuto fare un tipo di lavoro narrativo che mi appartiene di più, perché io come formazione sono una sceneggiatrice, sono diplomata al centro sperimentale in sceneggiatura e la regia è arrivata un po' dopo da autodidatta, quindi mi sono comportata comunque come se avessi in mano una storia che in qualche modo ho provato a strutturare. Quindi dopo quel pera raccolto di archivi, di immagini incredibili di quella giornata, ho fatto un lavoro differente, ho iniziato a incontrare i 1000 musicisti che hanno fatto l'impresa. Quindi con loro ho passato del tempo, ho fatto delle interviste, ho approfondito le loro storie e quindi ho cercato di costruire un racconto che non fosse solo cronacistico, reportaggistico, legato a quell'evento così straordinario, ma ho voluto costruire un racconto corale che mi permettesse anche di espandere quello che è il concetto di musica, di passione per la musica, devozione per la musica e quanto è importante suonare liberatorio per tutti noi. E quindi è un discorso un pochino più ampio. Documentario affronta temi appunto come quelli che ti ho detto, attraverso le vite personali di alcuni musicisti che hanno partecipato a questa folle impresa, ecco. Che impressioni ne hai ricavato? Ah, sai, mi sono avvicinata a un mondo che conoscevo, in quanto anch'io sono una musicista, però una musicista amatoriale, direi. Mi sono avvicinata a quella che è un po' questa passione incredibile di tutte queste persone per la musica. Mi sono resa conto, ascoltando le loro storie personali, quanto è difficile fare musica in Italia, quanto è difficile vivere, diciamo, farne un lavoro. E accompagnato a questo ho avuto la possibilità di conoscere quanto lavoro c'è dietro a quello che appunto per molti può sembrare solo un hobby o un vezzo o una forma di vanità. La musica è una forma d'arte, ci sono dei musicisti bravissimi che ho incontrato, che compongono musica, che hanno una loro band, che portano avanti un percorso musicale anche molto, molto profondo, molto pieno di rimandi, eccetera. Quindi sono entrata in questo mondo e ho cercato di farne un ritratto corale di quanto può essere importante la musica nelle nostre vite, che è un po' quello che spero possa essere il messaggio che rimarrà a chi andrà a vedere il film uscendo dalla sala. Magari, non so, mi immagino e spero che aiuti a stimolare a riprendere in mano lo strumento, perché la musica è davvero molto liberatoria e anche terapeutica, e quindi in un momento come questo, perché no? Tra l'altro, quell'evento ha avuto poi dei seguiti. Ci racconti un po' come si è sviluppato? All'inizio era nato come un evento one shot per appunto l'operazione Foo Fighters, cioè fare questo video e poi invitare la band a suonare nella nostra città. Questo è effettivamente successo, ma quello che non ci aspettavamo e ci siamo resi conto dopo è che questi 1000 musicisti che avevano partecipato a questa impresa così incredibile si erano uniti tantissimo tra di loro, cioè si erano scambiati contatti, conosciuti, avevano fatto dei gruppi su Facebook, su vari social, insomma si stavano sentendo, e queste persone ci hanno chiesto di voler suonare ancora, di proporre loro altri eventi con una composizione simile. Quindi è stata più da un'esigenza, una richiesta loro, l'idea di voler proseguire. E quindi l'anno successivo si è partiti con il progetto degli stadi. Quindi abbiamo sempre organizzato un evento, però questa volta in uno stadio, perché avremmo potuto quindi ospitare più spettatori, e abbiamo costruito una scaletta di pezzi rock iconici, incredibili, e abbiamo organizzato e realizzato uno show di 2 ore in cui 1000 musicisti suonavano una ventina di pezzi, quindi abbiamo costruito proprio un vero spettacolo con loro. E dal di lì, diciamo, da quell'esperimento dell'anno successivo è partito quello che si può dire un format, che è andato avanti, ha fatto altre date, Firenze, Courmayeur, e poi è arrivato anche in Europa con Parigi e Francoforte. Un'uscita evento di 4 date, e come mai questa scelta e in quante sale? Siamo distribuiti da iWonder, che è una casa di distribuzione ottima, che soprattutto ha nel cuore quello di distribuire documentari evento. Una storia come We Are the Thousand ci sembrava perfetta per questa tipologia di distribuzione, e quindi abbiamo accettato la proposta di iWonder. Adesso abbiamo una 40 di sale, ma la lista è in continuo aggiornamento. Questo lo dico perché con i tempi che stiamo vivendo, con la pandemia e tutto, stiamo giorno dopo giorno cercando di organizzarci e capire quali sale aderiranno e quali non riescono per vari motivi. Siamo stati in stand-by fino a domenica in attesa di capire quale sarebbe stato il nuovo decreto e quindi insomma ci stiamo organizzando in questi giorni. Comunque sono già uscite sulla pagina di iWonder le sale, ce ne sono per ora una quarantina in tutta Italia. We Are the Thousand, l'incredibile storia di Rockin' Mille al cinema dal 25 al 28 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista Anita Rivaroli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Con Patrizia Rappazzo, direttrice della 27esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival a Milano, al Teatro Franco Parenti ed Anteo Palazzo del Cinema e su My Movies dal 23 al 31 ottobre 2020. Patrizia, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere ancora con noi anche per questa edizione già definita coraggiosa. Allora, una lunga storia, 27esima edizione, raccontiamo cos'è. Sguardi Altrove quest'anno ha subito tutta una serie di spostamenti perché solitamente, come sapete, l'edizione si svolge in marzo, ma appunto per il problema della pandemia ci siamo spostati ad ottobre. Per cui abbiamo pensato e rivisto un po' quella che è la tradizionale proposta nostra e l'abbiamo riformulata, riadattata poi al format anche del digitale. Infatti, come hai anticipato, il festival si svolge in tre date in presenza proprio al Cinema Anteo, dove inauguriamo il 23 con un film in anteprima italiana, Love Sara, film di una regista di origine tedesca ma che vive da tanti anni in Inghilterra, una commedia drammatica molto carina per aprire anche con toni leggeri questa edizione. Siamo in sala e poi saremo ancora al Teatro Franco Parenti con una lunga giornata dedicata al cinema e ai diritti del donne, con collegamenti internazionali, con ospiti appunto internazionali, tra cui anche io a Sorvino, ma anche la nostra Claudia Gerini, a cui quest'anno il festival dedica anche un omaggio. La terza giornata invece si svolgerà, che è quella conclusiva di fatto della manifestazione, al Cinema Anteo, il 30, con la cerimonia di premiazione, con un incontro anche con Maria Sole Tognazzi, di cui viene presentato un episodio per concessione di Sky Cinema, Petra, di cui lei ha firmato la regia, e poi la cerimonia appunto di premiazione e a seguire i film vincitori. Su My Movies abbiamo pensato di portare il grosso chiaramente di tutto il nostro programma festivaliero, e quindi i concorsi internazionali sono 8 titoli di lungometraggi, di cui praticamente tutti anteprime italiane e anteprime europee, con un'anteprima assoluta di un film iraniano. E poi abbiamo il concorso Sguardi Confinati, ancora una volta 17 titoli, tutti in anteprima italiana, e una vistosa e significativa vetrina dedicata al cinema italiano, con anche dei titoli che si sono aggiunti in corsa a quella che era stata la selezione già attuata in marzo, tra cui Nebbia, il film Nebbia, famosa, e poi ultimissimo il corto della Jasmine Prinka, che aprirà la nostra manifestazione insieme al film in fuori concorso. Quest'anno il festival si è adeguato anche a quella che è l'urgenza pandemica, chiaramente con una call dedicata proprio a ciò che ha lasciato sull'anima, sui cuori, e che ha fatto riscrivere attraverso il cinema di quelle che sono state appunto le emozioni lasciate proprio dall'esperienza del virus nella sua prima parte, e abbiamo aperto una sezione straordinaria che si chiama Sconfinamenti Femminili, proprio dedicata al Covid, e poi un collegamento significativo da ciò che è stato prodotto dalle scuole, la scuola di cinema Luchino Visconti di Milano, il centro sperimentale di cinematografia di Palermo, e la scuola di Bolzano di sceneggiatura, su quello che è stato realizzato durante quel periodo, e ci sarà anche un collegamento proprio diretto per parlare di questo. il focus in linea con i temi emergenti dell'Agenda 2030, che hanno individuato 17 goal da raggiungere significativi. E in linea di questo i focus saranno dedicati al cinema e all'ambiente, con anche proiezioni e talk appunto dedicati al cinema e nuove tecnologie, e in particolare no, la presenza delle donne in ambiti significativi, sempre con grandi difficoltà proprio in luoghi dove ancora la presenza maschile è fortemente radicata, e poi anche uno spazio dedicato ai diritti umani. Grande, grande spazio quest'anno, grande attenzione proprio al lavoro delle donne sul set e anche a quelle che sono un po', non voglio parlare di vere e proprie discriminazioni, ma comunque le difficoltà che ancora le registe donne vivono a livello internazionale. Per questo appunto ci sono collegamenti diversificati, una cura di Barbara Tarricone e una cura di Marta Stella, che appunto si intratterranno per raccontarci e per parlare con le dirette interessate e valutare proprio oggi nella contemporaneità quello che si vive ancora in luoghi diverse parti del mondo. 85% di anteprime, oltre 60 titoli, tanti tanti ospiti che avevamo pensato in presenza, ma a questo punto in linea di massima in maniera generale con tutta una serie di collegamenti, e quindi cercheremo di dare visibilità a tutto il nostro lavoro in maniera puntuale, così come è nostra tradizione, proprio passando da tutto ciò che avveniva in sala, trasferendolo direttamente su MyMovies. È una scommessa chiaramente, però sono certa che ce la faremo. Per tutti i dettagli ci lasci i riferimenti internet? Guardi altrove, filmfestival.it, ma anche su MyMovies, naturalmente, dove si potrà acquistare il nostro abbonamento, che ha chiaramente un prezzo calmierato, e anche si può acquistare l'accesso alla singola proiezione. Mi pregia di ricordare che quest'anno abbiamo la continuità tutta una serie di collaborazioni veramente importanti per noi, tra cui Rai Cinema, Rai Movies, Sky Cinema, Radio Popolare, insomma tanti tanti che ci seguono da anni, e anche insomma tanti ringraziamenti per tutti quelli che, sebbene queste difficoltà immense, hanno creduto ancora in noi. Sguardi altrove Film Festival, 27esima edizione al Teatro Franco Parenti e Anteo Palazzo del Cinema a Milano, e sulla piattaforma MyMovies dal 23 al 31 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Patrizia Rappazzo. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi Lupo, vi aspetto sia in sala che sulla nostra inedita piattaforma. Grazie. Con Sergio Visinoni di Lab 80 Film, uno dei curatori della 14esima edizione del concorso cinematografico Integrazione Film Festival a Bergamo e Sarnico dal 20 al 24 ottobre 2020. Sergio, ben trovato. Grazie mille dell'ospitalità. Cos'è questo festival? Integrazione Film Festival è un festival di cortometraggi e documentari che vuole raccontare integrazione, ma anche, questa I significa anche altre cose, significa intercultura, vuole raccontare la complessità di quello che ci circonda in un modo magari un po' diverso, cercando delle narrazioni alternative agli stereotipi che spesso, anzi sempre, circondano la realtà anche dell'immigrazione, del mondo che abbiamo intorno e che vediamo tutti i giorni e che spesso appunto è raccontato in maniera negativa. Abbiamo cercato invece delle storie che raccontino un incontro di culture e ne abbiamo trovate diverse. Quest'anno naturalmente siamo, come molti festival, in doppia modalità, cioè sia in presenza che in streaming, tant'è che in realtà l'edizione, che era già pronta a febbraio e prevista per aprile, è stata rimandata e siamo in questa nuova collocazione di ottobre. Come si svolgeranno queste giornate? Iniziamo il 20, che è martedì, ci sono appunto selezioni di corti, presenteremo man mano tutto il programma durante le serate del festival e ci saranno degli incontri con quasi tutti gli autori che in realtà saranno presenti a distanza, ma saranno disponibili per rispondere e interagire con il pubblico. pubblico di Bergamo potrà intervenire direttamente prenotandosi, ci sono tutte le informazioni sul sito del festival, if-filmfestival.com. Si può prenotare per le serate, la prenotazione è obbligatoria, e però potrà anche seguire in streaming, anche qui sul sito può tranquillamente prenotare e seguire tutta la rassegna. Quindi presenteremo tutti i film, sono due serate a Bergamo all'Auditorium e una serata il 24 ottobre a Sarnico al Cinema Junior. Il 23 faremo solo un momento di streaming invece, con il programma poi ecco, è tutto presente sul sito e siccome sono anche molti titoli si può consultare direttamente lì. Nel complesso quante sono le opere presentate? Abbiamo, se non mi sbaglio, 15 corti e 5 documentari, in più ci sono anche delle sorprese, delle aggiunte. Avremo un ospite internazionale che è Amanda Touré, che è un'attrice francese, magari qualcuno se la ricorderà perché era una delle protagoniste del film dell'anno scorso di Checco Zalone, e viene a trovarci in presenza, quindi sarà con noi a Bergamo e grazie alla sua presenza abbiamo preso l'occasione per presentare un po' dei suoi lavori, tra cui un cortometraggio che si chiama Exotique, che era stato presentato 2 o 3 anni fa del festival, quindi è un gradito ritorno. I luoghi e gli orari? Abbiamo il 20 e il 21 a Bergamo in Auditorium alle 20:45, poi c'è la serata solo in streaming, dicevo, del 23 ottobre, che è inizia alle 18:30, con la proiezione anche nel pomeriggio anche di 2 documentari e poi prosegue alle 20:45 con il resto della selezione. Il 24 ottobre, che sarà anche la serata finale e ci sarà la premiazione, alle 20:45 a Sarnico al Cineteatro Junior e in streaming. 14ª edizione del concorso cinematografico IF Integrazione Film Festival a Bergamo e Sarnico dal 20 al 24 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Sergio Visinoni di Lab 80 Film. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, Greti, a presto. Con Massimo Gazzè, presidente del network Arene di Roma, che ci parlerà di Arena Farnesina, il gusto della cultura, la cultura del gusto, al Villaggio della Cultura, a Lungotevere Diaz a Roma, dal 21 agosto al 30 ottobre 2020. Massimo, ben trovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Presentiamo questo progetto di Arena. È un'estate particolare questa, lo sappiamo tutti. Noi comunque abbiamo raccolto la lodevole iniziativa del municipio Roma 15, che ha voluto appunto, malgrado i tempi, dedicare uno spazio alla cultura partecipata. Iniziamo appunto il 21 agosto e abbiamo creato un vero e proprio villaggio dove cinema, teatro, musica, arte, happening si contaminano tra loro, quindi è l'arte che si contamina, ma non le persone, perché ovviamente è stata dedicata una grande attenzione per creare uno spazio adatto a mantenere le distanze pur partecipando tutti insieme. Non solo appunto il gusto della cultura, ma anche la cultura del gusto, perché abbiamo un ristorante all'aperto con Andy Luotto, che è uno chef, ma sicuramente appartiene anche a pieno titolo al mondo dello spettacolo. Sarà tutti i giorni. Quanti sono i film presentati? Abbiamo una programmazione molto ricca, saranno quasi 100 i film presentati. In realtà apriamo il pomeriggio alle 18, abbiamo delle attività ludiche, dei laboratori, poi avremo anche tutta una serie di incontri letterari, saranno più di 100 gli autori che presenteranno i loro libri. Per quanto riguarda il cinema, la manifestazione è piuttosto articolata. Inizieremo con la rassegna Tutta Musica, in cui ripercorriamo i grandi classici che hanno fatto la storia del cinema. Inauguriamo con Jesus Christ Superstar, ma poi avremo i Blues Brothers, Rocky Horror Picture Show,